ma che succede? È la stampa, belletta, la stampa. La rassegna stampa di Radio 24, a cura di Bruno Perini. E tu non ci puoi far niente, niente. Obama: Berlusconi è vecchio, brutto e nano. Poi precisa, era un grande complimento. Dagli studi di Radio 24 un saluto da Bruno Perini, in regia con noi Carmelo Lauricella. Vi ho letto la sferzante satira di Iena sul quotidiano La Stampa a proposito della battuta di Berlusconi su Obama. Obama, bello e abbronzato, avrete già capito che questa battuta di Silvio Berlusconi pronunciata in Russia ha fatto il giro del mondo, ha creato grandi polemiche. Alcuni dicono fin eccessive, ma comunque questo è sulla stampa italiana e non solo italiana, ritroviamo tutte le prime pagine dedicate a questa battuta. Se rimaniamo sulla stampa, vediamo che da New York Glauco Maggi scrive: Berlusconi did it again, Berlusconi lo ha rifatto. Così commenta il New York Times l'uscita del premier italiano sulla bronzatura del presidente eletto degli Stati Uniti, riflettendo la sorpresa dei media americani per la frase scorretta, come la definisce Fox TV, a neanche due giorni dalla chiusura dei seggi. Sebbene non vi siano commenti ufficiali né dell'amministrazione Bush né del team di Obama, le frasi di Berlusconi hanno conquistato l'attenzione degli americani nel giro di poche ore. Se il premier italiano voleva farsi notare da Barack Obama, che ha ricevuto 1000 messaggi da tutti i suoi colleghi leader internazionali, ci è riuscito alla sua maniera. Questo scrive il La Stampa, riporta per correttezza e giustamente anche la versione, la reazione prima, proprio quella di Berlusconi, perché è bello e abbronzato Silvio, gaffe su Obama. Ci sono alcune reazioni, quella di Finocchiaro: questo è il premier delle bandane e delle corna, perché meravigliarsi che scherzi sul colore della pelle di Obama. E invece Fabrizio Cicchito che dice: Berlusconi ha fatto una battuta di spirito, la sinistra scatena una tempesta in un bicchiere d'acqua. Quella del premier, dice invece Massimo Donati dell'Italia dei Valori, sono battute da avan spettacolo che tradiscono un razzismo trisciante. Ma è il primo a difendersi, lui: come si fa ad interpretare quello che è una carineria come un giudizio negativo, dice Silvio Berlusconi, ma che vadano a 3 puntini di sospensione. Se hanno anche il torto di non avere il senso dell'humor, peggio per loro. È una carineria assoluta. Ma come fa qualcuno a dire il contrario? Se scendono in campo gli imbecilli, siamo fregati. Dio ci salvi dagli imbecilli. Quindi anche qui le parole si sprecano. Poi ieri abbiamo sentito è cresciuta la tensione, anche la polemica. Lo stesso Berlusconi è tornato ancora dicendo: questa volta mi sono proprio rotto e dico quello che penso. Certi discorsi danno l'impressione che qualcuno voglia prendersi la laurea del coglione. Se vuole farlo, si accomodi. E questo, come vedete, il tono è altissimo. Tra altre cose, in tutti i giornali c'è anche una testimonianza, di della giornalista Rula Gebral, che dice: a me 2 anni fa, quando Calderoli mi definì quella abbronzata, Berlusconi mi chiese scusa. Lo ricordo oggi. Rula Gebral, la giornalista israeliana di origine palestinese, riferendosi all'episodio in cui Roberto Calderoli la chiamò in causa definendola quella giornalista appunto abbronzata, per definire la giornalista palestinese. E questo la stampa tra le cose affida a Marcello Soggi una riflessione più sugli stili. Dice: non fosse per la gaffe di Berlusconi su Obama abbronzato, la cosa che ha più colpito in Italia dopo la straordinaria vittoria del nuovo presidente americano è l'elegante modo del suo sfidante di accettare la sconfitta. Oltre a congratularsi con il suo avversario a conclusione della lunga corsa elettorale, McCain gli ha fatto gli auguri più sinceri e ha promesso aiuto e collaborazione nell'interesse del paese. E scrive Marcello Sorgi: ecco una cosa assolutamente normale. In una normale democrazia come gli USA, qui da noi è rimbalzata per per ore tra TV, radio e siti internet, accompagnata da stupore, consensi e critiche, senza che questo, che il chiacchiericcio politico italiano accennasse, neppure una trega, ma ad abbassare il consueto volume degli insulti, dice Sorge, insomma, da mesi ormai e perfino da anni è così. Meravigliarsi per la civiltà dei rapporti tra i due uomini su cui ha scommesso l'America è logico in un paese come il nostro, in cui i candidati non smettono mai di accapigliarsi, di darsene, di promettersi, di scambiarsi il guanto dei padrini per un duello infinito, in cui è sottinteso che nessuno mai riuscirà a prevalere. Sulla stampa, ma voglio subito dirvi che ci sono anche difese molto forti e convinte del presidente Cossi. Il giornale Salvatore Tramontano dice in un commento a proposito della frase di Berlusconi: niente da scandalizzarsi, Berlusconi è così, prendere o lasciare, il protocollo e il gergo della diplomazia non sono nel suo DNA, ma stipulare 13 accordi con la Russia e ripulire Napoli dai rifiuti sono cose che gli riescono bene. E ancora scrive Salvatore Tramontano sul giornale: mentre la vera gaffa è quella di chi continua a non capire che da 14 anni l'anomalia vincente di Berlusconi consiste proprio nella sua continua capacità di violare i confini del politicamente corretto. Dovrebbero capire i Veltroni, i Franceschini, i Vali di Pietro che da almeno 14 anni non è che Berlusconi vinca malgrado un eloquio che loro considerano sconveniente, ma semmai il contrario: Berlusconi vince proprio perché la sua cifra comunicativa è quella diversa, non imbrigliata nelle convenienze, non congelata dal freddo sigillo della più algida burocraticità. Questo dice Salvatore Tramontano a difesa di Silvio Berlusconi sul quotidiano Il Giornale. Sinistra ipocrita, Obama abbronzato, embè? La battuta di Berlusconi fa il giro del mondo. La sinistra italiana monta un pandemonio ridicolo, ma la vera barzelletta sporca sono gli ex comunisti oggi diventati tutti americani. E dopo il quotidiano Il Giornale, che come vi ho letto difende strenuamente Silvio Berlusconi dalle accuse di essere razzista, e sulla battuta che ormai però ha fatto il giro del mondo davvero su tutti i quotidiani del mondo, Libero, il quotidiano diretto da Vittorio Feltri, scende in campo a favore di Berlusconi. È affidata a Luigi Sant'Ambrogio la difesa. Obama abbronzato come la giornalista palestinese Rula Gebral, ricordate? Fu lo spaccone della Lega, l'allora ministro Roberto Calderoli, a dipingere così la bella anchor woman di La Sette. La battuta non sfondò, fece solo il giro di qualche redazione. Oggi invece, leggiamo sul quotidiano Libero, quasi tutti i giornali del mondo usciranno con la pirlata da oratorio di Silvio Berlusconi sul nuovo presidente degli Stati Uniti d'America. Obama abbronzato, figuraccia mondiale, urla la sinistra, ma che è solo una carineria nei confronti di un leader giovane e bello, si giustifica il premier preso in castagna. Beh, diciamo che lo strepito mondiale per l'improvvida e burlesca uscita del premier è sicuramente esagerato e offre purtroppo lo spettacolo desolante, ecco la critica alla stampa, di una stampa che non ha di meglio da offrire se non le fesserie o le battute, chiamatele come volete, di un capo di governo con licenza di sorridere. E qui c'è tutta una... Poi Libero disegna invece, anzi Benny, il disegnatore che lavora per Libero, disegna Walter Veltroni in versione Obama, visto da Benny, e Veltroni è sempre più nero, altro che Barack. E poi c'è anche un intervento invece serio, diciamo politicamente ragionato, di Antonio Martino, che invece proprio è preoccupato per la vittoria di Barack Obama. Dice: c'è poco da ridere, la libertà è a rischio. Obama si è molto sbilanciato in favore di una politica protezionista e non è detto che ponga in essere quanto ha minacciato, ma potrebbe farlo, sarebbe disastroso. Dice quindi, tornando ad Obama, vedo poco di cui essere entusiasti, a parte l'elezione del primo americano di colore, e anche quello per un liberale non è necessariamente un fatto positivo. Contano i valori della persona, non il colore della pelle, quindi proprio grande preoccupazione da parte di di Antonio Martino sul quotidiano Libero. Ora, diverso ovviamente, beh, intanto vorrei fare una parentesi perché vorrei, come dire, lasciare un attimo la polemica che incalza su tutti i quotidiani nei confronti di Silvio Berlusconi, per invece passare al Sole 24 Ore, che si occupa invece dei grandi temi della finanza, della crisi che non è affatto terminata, e lo vediamo, giù i tassi ma borse in caduta, l'avete sentito anche da GR, l'Europa perde 300 miliardi, Milano perde 5,1%, Wall Street meno 5%, per Fondo Monetario Internazionale tutti i grandi paesi in recessione nel 2009, Italia si prevede uno meno 0,6%, la BCE ha tagliato del 3,75% al 3,25% come previsto, scusate, dal 3,75% al 3,25% come previsto, il tasso di interesse chiave per l'area euro, per il presidente Jean-Claude Trichet è possibile un'altra riduzione a dicembre, molto più ampio il calo della Banca d'Inghilterra, che questo è un segnale forte da parte della Banca d'Inghilterra, che invece passa dal 4,5% al 3%, il livello più basso 54 anni. Ecco, vuol dire che la politica della Banca d'Inghilterra è diversa tra l'altro da quella della UE. Il ribasso del costo del denaro non ha però giovato alle borse, che non sono convinte. Si vede forte perdita, avete sentito le cifre che sono preoccupanti. Il Sole 24 Ore oltretutto riporta un'altra notizia, diciamo così, non proprio positiva per quanto riguarda l'economia e il risparmio. Accelera la fuga dai fondi, in uscita altri 23 miliardi. Isabella Della Valle, in ottobre colpite obbligazionari e flessibili. A ottobre il sistema fondi ha registrato una raccolta netta negativa per 22,9 miliardi, è il dato peggiore di sempre, che ha portato il saldo da inizio anno a meno 114 miliardi, particolarmente bersagliati da riscatti di obbligazionari, mentre per flessibili e azionari il saldo è stato negativo per 1,9 per 3,5 miliardi, in forte calo anche il patrimonio passato da 478 a 436 miliardi, meno 8,7%, e ancora sul Sole 24 Ore un Carlo Bastasin, editorialista, che scrive a proposito di Obama, testimone del dialogo globale, dice: con l'elezione di un presidente democratico il fantasma del protezionismo torna a essere evocato e a spaventare chi osserva la prima vera crisi dell'economia globale. Ma Barack Obama, scrive Carlo Bastasin, non potrà restituire agli Stati Uniti, come aspira, il ruolo di modello dei valori nel mondo e promuovere al tempo stesso un programma protezionista. Sarebbe una contraddizione, un'obiettiva, una contraddizione insanabile. Questo scrive Carlo Bastasin. A proposito di Sole 24 Ore, voglio però ricordarvi che di Radio 24 ovviamente, no? Che stamane dietro la notizia avrà come ospite Marco Mariani, caporedattore del Sole 24 Ore, e Andrea Casalegno, che parleranno di scuola partendo proprio dal nuovo Istanbul del Sole sulla scuola. Voglio anche ricordarvi, cosa che è già stata ricordata con un certo come dire, orgoglio, che l'agenzia ANSA di ieri proprio ricordava che Radio 24 non solo è entrata nelle top 10, ma ha registrato la crescita più alta, pari al 9,9% rispetto al quinto bimestre 2007, quindi una nota d'orgoglio che leggiamo dall'agenzia ANSA, che già avete sentito nel GR. Questo per quanto riguarda le grandi notizie economiche e finanziarie. Ora voglio vedere invece cosa dice la Repubblica. Il quotidiano La Repubblica è molto, ma molto più severa di altri quotidiani, come era prevedibile, rispetto alle battute di Berlusconi, gaffe su Obama. I bookmakers in questo caso non accettano scommesse. Da mesi, scrive Curzio Maltese, in previsione dell'evento storico dell'altra notte si aspettava la prima gaffe di Silvio Berlusconi sul colore della pelle del nuovo presidente americano. Il cavaliere non delude mai le peggiori aspettative e la battuta è arrivata. L'unica sorpresa è la tempistica. Ad appena 24 ore dall'elezione il premier se n'è uscito con la storia di Obama abbronzato. Non è la solita cafonata alla quale ci ha abituato e ci siamo ormai rassegnati da lustri. È una definizione grondante di razzismo, quindi severissima. benissimo il giudizio di Curzio Maltese a proposito della battuta. Io però volevo, intanto rimanendo ancorati all'economia, ricordarvi Federico Rampini che dice la depressione incubo di Barack, perché gli pone un problema serio, cioè Barack Obama adesso, al di là finita la campagna elettorale, dovrà affrontare problemi seri. Il benvenuto dell'economia reale a Obama è un segnale di SOS, un grido disperato di soccorso. Una delegazione dei tre top manager dell'industria automobilistica insieme con i capi dei sindacati metalmeccanico si è precipitata a Washington per implorare un aiuto immediato. Oggi sono dati bilancio così catastrofici da Detroit che la bancarotta di General Motors e Ford è un rischio reale. Scrive Federico Rampini, sottolineando come davvero problemi grossi ne avrà Barack Obama adesso che, quando si insedierà realmente alla Casa Bianca. Oh, volevo segnalarvi dalla Repubblica un'altra notizia, piuttosto, non mi sembra aver letto da altre parti, piuttosto preoccupante. Casaleghi, tritolo per un attentato. Tritolo, 50 kg, mette i brividi l'ultima indiscrezione che arriva dal fronte di Gomorra. Una devastante partita di esplosivo sarebbe già in possesso del gruppo stragista del clan dei Casalesi, l'ala terroristica guidata dal superlatitante Giuseppe Setola. Materiale che sarebbe già giunto a destinazione. I pubblici ministeri dell'antimafia considerano questa voce attendibile, fondata, e si fanno domande: dove è costruito quel tritolo e soprattutto a chi è destinato? E i timori, e anche qualche giornale lo scrive, l'allarme dei magistrati, il nuovo codice rosso per Saviano e i bersagli del clan. Sì, davvero da tremare questo tritolo fosse, come dire, destinato a Saviano o a qualche magistrato. Questo dicevo sul quotidiano La Repubblica, ma se passiamo dalla Repubblica al Corriere della Sera, ecco, sì, io volevo intanto segnalarvi, poi dovremo dare la linea alle notizie sul traffico, ma insomma, Luigi Ferrarella, liti davanti al figlio, è maltrattamento. Luigi Ferrarella, giornalista giudiziario, ci scrive: il papà e la mamma che, mentre il loro matrimonio va a rotoli, litigano sotto gli occhi del figlio, scambiandosi reciproche accuse, incorrono nel reato di maltrattamento del figlio per la sofferenza psicologica cagionatagli. E è la valutazione in base alla quale la Procura di Milano ha chiesto il rinvio a giudizio di due genitori. Questo leggiamo in un servizio di Luigi Ferrarella interessante. Il Corriere della Sera poi affida invece a Gian Antonio Stello le battute dell'incompreso, convinto che grazie a lui l'Italia sia il paese più simpatico del mondo. Silvio Berlusconi si è lanciato ieri in una delle battute che lo fanno ridere assai. Questo scrive Gian Antonio Stella, e poi lo vedremo dopo. Invece Franco Venturini si occupa di cose di livello alto politicamente parlando: le nuove ragioni dell'Occidente, il presidente USA e i suoi alleati. Quali saranno queste nuove relazioni? E Wall Street non crede a Obama, scrive, è il titolo dell'articolo di Massimo Gaggi sul Corriere della Sera. Questa grave crisi è una disgrazia, ma è anche un'occasione di cambiamento, di modernizzazione. E il nuovo presidente è il salesman giusto per attuarla, dice il capo dell'IBM, Sam Palmisano. E dice, scrive ancora Massimo Gaggi sul Corriere della Sera: la borsa di New York, che nelle due sedute successive all'elezione di Obama ha perso il 10%, è lo specchio di questo malessere. Parlare di un voto di sfiducia di Wall Street nei confronti del nuovo presidente sarebbe scorretto. Mercoledì sullo Stock Exchange si era abbattuta una raffica di cattive notizie. Dopo il crollo del settore delle costruzioni e la frenata dell'industria manifatturiera, anche il settore dei servizi, l'unico che poteva ancora dare fiato all'economia, ha registrato una contrazione di dimensioni impressionanti. E ieri, scrive Massimo Gaggi, anche i dati delle vendite al dettaglio hanno confermato che gli USA stanno scivolando in una recessione profonda, mentre la crisi dell'auto continua a peggiorare a vista d'occhio. Oggi arriveranno i dati sul mercato del lavoro e molti temono che un'altra impennata della disoccupazione spinga ancora più giù l'indice Dow Jones. Ecco, questo sul Corriere della Sera, Massimo Gaggi. Vi dicevo, Franco Venturini invece si occupa delle alleanze di Barack Obama con l'Occidente e in Europa. Il trionfo di Barack Obama non è, come sostengono i suoi tifosi più accesi da questa parte dell'Atlantico, un'automatica vittoria dell'Europa. L'America continuerà a tutelare prima di tutto i suoi interessi, continuerà a ragionare da superpotenza, continuerà a sollecitare la collaborazione talvolta scomoda dei suoi alleati. Non ci sarà un'improvvisa europeizzazione degli USA. Questo scrive Franco Venturini sul Corriere della Sera. Ora voglio passare a un tema che viene trattato in modo diverso da tre giornali, perché... o meglio, dal Riformista, il contrasto che c'è tra Gianfranco Fini e Silvio Berlusconi a proposito di come gestire il dibattito o non gestirlo sulla finanziaria. Il Riformista fa un titolo molto politico, scrive: Fini, c'era una volta un delfino. A sentire i fedelissimi del Presidente della Camera, si andrà avanti così fino alla fine della legislatura. Fini userà il suo profilo istituzionale per smarcarsi, definire un altro profilo di centrodestra, anche rischiando lo scontro con Berlusconi sui rapporti tra Parlamento e Governo, come quello di ieri, dopo che mercoledì sera l'opposizione ha abbandonato la Commissione Bilancio a seguito della blindatura del testo della finanziaria approvato dal Consiglio dei Ministri. Ieri Fini ha definito politicamente deprecabile il tentativo del Governo di porre la fiducia sulla manovra fiscale. Replica del Premier: non si vuole capire che l'assalto alla diligenza è finito. Quindi una connotazione molto politica da parte del Riformista, che dice questo è un modo di Fini per smarcarsi da Berlusconi e candidarsi a essere leader, chissà quando, del centrodestra, un leader diverso. Libero invece, per esempio, Oscar Giannino scrive: il finto litigio fra Fini e il Cavaliere, scontro Fini-Berlusconi, titoleranno in molti, ma che, replico io, ciascuno dei due fa semplicemente il suo mestiere, uno alla testa del governo, l'altro alla testa di Montecipolo. E così il centrodestra copre l'intero arco di posizioni. L'opposizione ci casca e crede di insufflare il venticello insidioso della divisione in campo avverso, ringraziando Fini contro Berlusconi. Ma in realtà lo sanno tutti che è solo un bizantinismo. Ecco, questa è una posizione assai diversa. Vedo che anche la cronaca della Stampa, invece, Ugo Magri accredita uno scontro reale. Scontro tra Fini e Berlusconi. Fini non ci sta a farsi mettere i piedi in testa, fosse pure da Berlusconi. Quando ha saputo che il governo stava per mettere la fiducia sulla finanziaria, con il risultato di soffocare il dibattito, il Presidente della Camera ha detto come la pensa, sarebbe deprecabile. E questo è una cronaca, però insomma la dice lunga su come si interpretano dei fenomeni diversi. Volevo anche rimanere sul Riformista. Tu vuoi fare l'americano, provincialismi per il premier Barack è bello, giovane abbronzato con gaffe sul colore della pelle, per il leader del PD è bello, giovane tanto somigliante. E il Riformista dice: insomma, non facciano gli spiritosi, neanche quelli della sinistra. Berlusconi sfotte Obama, Veltroni si paragona, come dice, insomma, anche lui, di paragonarsi a Barack Obama è un po' diciamo così irrituale. Il foglio fuori dal coro: Obama porterà il politicamente corretto al potere o metterà fine alla cultura del piagnisteo? Ci sono grandi aspettative su di lui ed elementi del suo passato fanno propendere per la prima ipotesi, ma c'è un bel ma, e questi sono i ma che vengono posti dal Foglio a proposito di come considerare la vittoria di Barack Obama alla presidenza degli Stati Uniti. Manifesto e l'Unità, molto simile alla posizione rispetto al presidente Silvio Berlusconi. Il Manifesto titola: faccetta nera. Mentre il mondo festeggia Barack Obama, che prepara il suo team di governo, Silvio Berlusconi commenta nel suo stile la figura del nuovo presidente degli USA. E c'è Andrea Fabozzi che ne fa un commento dal titolo singolare: Old Brianza. Silvio Berlusconi, editore, ha pubblicato la traduzione italiana di un romanzo di Philip Roth nel quale un professore americano perdeva il posto e la reputazione per una battuta razziale, peraltro inconsapevole, riferita al suo alunno. È quello che accade nella realtà del consesso civile americano ed europeo. Poi c'è, dice, e racconta la storia di Silvio Berlusconi, che invece fa battute. Volevo segnalarvi, sì, Vauro è molto cattivo, il vignettista Vauro, brutto vecchiaccio pallido, e se non capisci la battuta vattene a fanculo. Questa è la vignetta di Vauro sul Manifesto. L'unità invece titola Barack Obama è bello giovane abbronzato, vabbè, ormai questa è la battuta che gira su tutti i giornali, su tutti i quotidiani. Il neoletto presidente USA: amo l'Italia, i nuovi poveri al primo punto, crisi e sanità. Sì, ecco, al di là diciamo dei programmi, macro programmi economici, secondo l'unità, il leader democratico ha chiamato il segretario al tesoro uscente per chiedere conto su come vengono spesi i 700 miliardi di dollari messi a disposizione del Congresso per contrastare l'emergenza creditizia. Ecco, Roberto Rezzo da Chicago dice: l'America sta vivendo una nuova era nella sua storia politica e le aspettative di tutti sono alle stelle, e il problema è che la nave di cui Obama sarà al timone da gennaio del prossimo anno, tra 74 giorni esatti, pare una gigantesca corazzata in condizioni pessime, motori stremati e una preoccupante serie di falle di poppa e prua. E qui ci sono i temi relativi alla priorità, se concentrare come ha fatto Henry Paulson, il segretario al tesoro uscente, con i suoi 700 miliardi di dollari messi a disposizione del Congresso per contrastare l'emergenza creditizia, e se invece una parte delle risorse dovranno andare per combattere la nuova povertà e dunque anche il reddito minimo, che poi consentirebbe il consumo e la ripresa dell'economia. Questo sull'unità, e con questa segnalazione mi fanno segno che ho finito il mio tempo. Vi ringrazio ancora, vi saluto e vi do appuntamento a domattina.